Buonasera a tutti e a tutte. Si comincia, signore e signori, con un'altra quattordicesima, ancora una volta puntata irresistibile e resistente, puntata di salute e felicità. E allora va bene, sono le 21 in punto, è il momento della sigla. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Allora, ci siamo in questa quattordicesima puntata di Salute e Felicità, più estiva che mai, davvero. siamo ai sgoccioli, come dire, all'ultima goccia, anzi, visto la temperatura, che ho già fatto sì che mi si rompessero le scarpe, anzi, mi si scollasse la parte di sotto a quella di sopra. Fatto sta, oggi tanta musica e poche chiacchiere. Innanzitutto è doveroso ancora una volta ringraziare un paio di voci che state sentendo spesso questa settimana e che davvero hanno dato un contributo che ha il suo significato, comunque il significato di vicinanza all'idea di transizione di fase. Per questo, appunto, dopo la sigla, qua è un'altra canzone, davvero un tributo, chiamiamolo così. Buon ascolto a tutti e a tutte. Yo, cammino con mia Rude Boy. Rude questo boy. È un pezzo dedicato ai ragazzi dei quartieri che vivono ai margini delle metropoli di Babilonia. Fuori da Yo. qui. Boom. Babylon tonight. Ha. La vita a volte non ti dà no. un modo per scappare via dalla tua via. realtà, via che ti spinge a non avere più fiducia in già no. relegato ai margini di Babilonia. Trust me. Hai chiuso gli occhi già da un po' ha. perché il sistema vuole controllare ogni everything. Ma se ti fermi un attimo ed ascolti nel tuo tempo, troverai la strada che ti libera lo spirito. Tu figlio della strada cambia la mentalità, sii cosciente rispettando la tua anima. Non ci pensi ma esiste un'altra tua metà che vive fuori dai bordi di sta città. Credi sia normale perché qui i miei fratelli vivono così, ma la violenza non risolve i problemi, è la coscienza che ti libererà. Sentimi, dimmi perché non credi più e non alzi lo sguardo in su. A testa alta dando fuoco all'ignoranza, ritroverai la tua identità. Yo, tieni di pronto se verrà il momento anche per te. È una giungla di cemento e sopravviverci tra mille espedienti che conosci bene ormai. Stai lontano dalle tentazioni del demonio ed il suo sguardo è nella società che ti controllerà. Sta a te spezzare le catene in questo carcere, supera questi limiti ed il modo per rinascere. Consapevolezza non dimenticarlo mai. Sei tu il primo bersaglio oggetto del loro mercimonio. Sei lo strumento manovrato dal demonio uomo. Manifesta il tuo ego che soffoca dentro. La rabbia che covi ti rende schiavo del tuo tempo. Il sistema ti ha insegnato qualunquismo e ipocrisia. Emancipa il tuo spirito riscoprendo l'energia. Stando in superficie non respirerai l'essenza. Fuori dalla strada resta l'unica salvezza. La vita a volte non ti dà modo per scappare via dalla tua realtà, via che ti spinge a non avere più fiducia in già no. relegato ai margini di Babilonia. Trust me, hai chiuso gli occhi già da un po' ha. perché il sistema vuole controllare ogni everything. Ma se ti fermi un attimo ed ascolti nel tuo tempo, troverai la strada che ti libera lo spirito. Credi sia normale perché qui i miei fratelli vivono così, ma la violenza non risolve i problemi, alla coscienza che ti libererà. Sentimi, dimmi perché non credi più e non alzi lo sguardo in su. A testa alta tanto fuoco all'ignoranza, ritroverai la tua identità. Seppellisci l'arroganza tollerando chi sta accanto a te. Glissa la violenza per non far parte di un branco. Il dialogo, i colori, la natura, la tua vita. Dio, i tuoi valori, la coscienza come guida. Conquista un'opinione indipendente su ogni fatto. Brucia ogni messaggio che profana il tuo intelletto. Peggio, fuori dal ghetto, sorveglia il tuo cammino. Non ci credi ma sei tu che scrivi il tuo destino. La vita a volte non ti dà modo per scappare via dalla tua realtà, via, che ti spinge a non avere più fiducia in già no. relegato ai margini di Babilonia. Trust me, hai chiuso gli occhi già da un po' ha. perché il sistema vuole controllare ogni everything. Ma se ti fermi un attimo ed ascolti nel tuo tempo, troverai la strada che ti libera lo spirito. Figlio della strada cambia la mentalità, sii cosciente rispettando la tua anima. Non ci pensi ma esiste un'altra tua metà che vive fuori dai bordi di sta città. Psycho, a man is just a man. A man is just a man. Oh well, desperation, that's why me can't chill. I'm a judge, a soldier with extra dopamine skills.

Marley's home at 56 Hope Road tonight. Any community going to, it's a problem, like going to prison. Saw the gunman? At that time, no. But you know who did it? Yeah, man. Were they caught? No, but I don't call the police. Yeah. Just, you know, my thing. Marijuana, policemen in the streets.

can comfort you with my own two hands, but you got to use your own two hands, use your own two hands, use your own two hands, and with our own two hands, with our own two hands, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you. But you got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to use. I use your own. Oh, use your own, Lord. Annunciato, oggi è davvero una puntata in cui sentirete poco o niente la mia voce. Vabbè, tra la stanchezza e la voglia sicuramente di chi sta a casa in questo momento, che sta lavorando, di ascoltare un po' di musica, andiamo avanti un poco su questo filone dub reggae, diciamo che ci si è evoluti molto. Loro sono un gruppo un po', come dire, controverso, però questo brano, diciamo, senza dubbio merita. Avete avuto modo di ascoltare innanzitutto dopo la sigla di Calafro Sun Power, poi Alborosi, Bob Marley, Peter Tosh, Ben Harper e adesso i Police con Walking on the Moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be E allora saltiamo anche un po' di palo in frasca, dopo aver ascoltato questi buoni 35 minuti di musica non stop. Volevo introdurre un po' l'argomento che insomma connota questa puntata, ma come ogni anno connota un po' le giornate di chi prova a fare movimento, a mettersi in movimento, se non a fare movimento, cercare di avere una lettura critica della situazione tutti i giorni, indipendentemente dai punti di partenza e dai punti di arrivo. E chiaramente 19, 20 e 21 luglio a Genova è successo quello che si sono definiti loro da soli una macelleria messicana, un 1-0 per noi, eccetera eccetera. E non ci sono, penso, parole per spiegare adeguatamente quello che è stato combinato lì a Genova. Chi c'è stato lo sa, chi non c'è stato come me purtroppo può vedere ancora qualche video e ascoltare qualche testimonianza, sempre più rara e rosicare, insomma, no? E davvero stringere i denti per quello che è successo, che non si è vissuto. Qualcuno dirà per fortuna, qualcuno purtroppo, non è rilevante. Chiaramente quello che è successo a Genova è stato un effettivo tentativo ben riuscito, ai noi, di distruggere il movimento dei movimenti, così definito a quei tempi, tentativo riuscito appunto con l'uccisione di Carlo Giuliani, un ragazzo appunto genovese. Uccisione dalla quale sono seguite una sequela di processi, controprocessi, prescrizioni, roba che diciamo ha l'unico obiettivo di affievolire quella che è la memoria attraverso la stanchezza, attraverso le infangate, attraverso la merda che ogni giorno sale su sempre di più, sia su questo processo che su tanti altri casi. Poi magari avremo modo di parlarne. Fatto sta, adesso da questa, appunto, come vi dicevo, da questa sequela, diciamo, da questo blocco iniziale di canzoni tutte dub, reggae, eccetera eccetera, passiamo un poco, che avevano un filo conduttore che non era solo quello di genere, ma quello che più o meno veniva detto durante all'interno dei testi, dei brani. Passiamo adesso a un altro gruppo di tutt'altro genere, però anche questo assolutamente, questa canzone assolutamente, secondo me, è in tema con queste tre giornate, 19, 20 e 21 luglio del 2001, quando insomma, volenti o nolenti, qualcosa in Italia è cambiato, purtroppo non nella direzione che volevamo noi, ma sicuramente è cambiato. Un buon ascolto a tutti e a tutte, state ascoltando transizionedifase.org e questa è Salute e Felicità, tutti i mercoledì in onda dalle 21 alle 23. Ai, signore e signori, grave errore. E quindi, opla, non so neanche che cosa sia successo. Allora, mi dovete dare solo qualche secondo, quanto vi faccio ripartire il pezzo che avevo messo. Eccolo qua, questo andrà sicuramente molto meglio. Buon ascolto a tutti e a tutte. Oh yeah. Of the bow, protection. E adesso proviamo ad ascoltare forse quello che, come dire, il ricordo più vivido, insomma, per chi non c'è stato a Genova, per chi c'è stato a Genova sicuramente c'è ben altro da ricordare, ma per chi non c'è stato a Genova invece, aver sentito queste parole giorni dopo essere stati comodi sulla poltrona a cercare di capire che cosa era successo in realtà a Genova, a cercare ognuno di davvero proiettarsi in quelle strade per capire come questa cosa fosse stata possibile. Questo è forse il ricordo di davvero più, cioè, come dire, il pensiero, non il ricordo, la notizia, non è neanche un ricordo perché ci deve essere stato comunque, non lo so, la testimonianza, forse è la parola giusta, più forte, che almeno per quanto mi riguarda io ricordi. Chiaramente il file si chiama 1-0 per noi e non ha assolutamente motivo di essere, né bisogno di essere, come dire, raccontato, descritto, introdotto. Buon ascolto a tutti e a tutte. Operativo? È la marescialla? Sì. Ma lei è il maresciallo l'altro, quell'altro là, Nicola? Nicola? Sì. Dove sei? Io sono Savona Ancona 22, mi dica pure, signora. Savona Ancona 22? Perché ma non puoi fare queste cose, mi ci spaventi. Allora, sono in macchina, mi sono trovato in albergo, dietro di me c'è un certo ispettore. Sì. Che è il fratello di una collega che conosciamo benissimo. Conosci benissimo, esatto. E io non lo sapevo fino all'altro giorno, l'ho scoperto. Bravo. Ti dici che cambiamento che ha fatto? Non la riconosci più. Hai vista? Sì. Complimenti. Amico, amore mio. Oh mamma. Alfredo, smettila che ci scopro. Senti, ma... stai montando adesso? Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'Ubot e la maschera antigas pronti a caricare le zecche che tiravano le pietre alla caserma. E poi invece niente. Però c'era il buon reparto mobili di Napoli, che erano delle montagne enorme. Lo so. Ero dietro di loro, non mi vedevano neanche. Infatti. Tutto bene, tutto sommato. Sì, no, siamo sopravvissuti, speriamo bene. Per fortuna. Spero, almeno questa notte non mi abbiano sfasciato la macchina, perché sono passati sotto casa mia oggi. Ce n'era una marea, iniziata alle 11 del pomeriggio, di mattina, alle 2:15 ancora camminava gente, terribile. Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino in servizio alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque. Speriamo che muoiano tutti in questa malattia. Media, simpatica. Amica, amica. Tanto uno già. Vabbè, per gli altri. Una sera per niente. Noi, Beh, cosa si può dire, insomma, dopo aver ascoltato queste parole, insomma, davvero non c'è nulla che descriva meglio, nulla di queste parole stesse che descrivano meglio, come dire, forse in realtà la potenza di un movimento del genere, perché indipendentemente dall'arrabbiatura che ci può essere rispetto al contenuto stesso, si capisce davvero quanto l'apparato, il braccio del potere di per sé in quel momento stava vacillando perché delle persone, milioni di persone, di italiani e non, erano riusciti davvero a sovvertire la situazione, a mettere in chiaro qual era la loro forza e quanta fosse la loro determinazione. E tutto ciò insieme ai soliti noti che non hanno fatto altro che manipolare, insomma, il loro braccio per portarli all'uccisione di Carlo Giuliani, ma non solo, alla rottura di un intero movimento, insomma, questi soliti noti sono, ai noi, riusciti nel loro intento. Fatto sta, la testimonianza resta, la testimonianza c'è, vive davvero in, penso, più di quel milione di persone, di quei milioni di persone che erano a Genova in quei giorni. E nonostante la botta in 9 anni l'abbiamo sentita tutta e ce lo possiamo dire chiaramente, come dire, non manca proprio la consapevolezza, insomma, di quello che è successo e del fatto che una cosa del genere nel nostro paese non dovrebbero essere mai accadute, nonostante poi Aldo Grandi, Cucchi, Sandri siano stati un lungo elenco. Andiamo avanti con la musica, adesso un altro po', un altro blocco di canzoni, così per spensierarci un po' in un giorno davvero dai 40 gradi fissi. Prima avete ascoltato Massive Attack, il brano si chiama Protection, adesso Tricky e questo brano si chiama Evolution, Revolution Love. Take it to the mind. This revolution. Almost too bright to see. drinking by candlelight. Thank you. Allora, giusto qualche momento di interruzione di questa grossa sfilza di musica per darvi un paio di appuntamenti. Il primo è l'appuntamento per domani mattina davanti al Tribunale a Roma, in solidarietà ai ribelli di Ponte Galeria. Dovete sapere, o sicuramente saprete, che c'è stata una rivolta avvenuta all'interno del CIE, del Centro di Identificazione e Espulsione, nella notte tra il 3 e il 4 giugno scorso all'interno appunto del CIE di Ponte Galeria, cui sono conseguiti chiaramente 8 reclusi, accusati di esserne stati gli istigatori. Sono stati arrestati e si trovano attualmente sotto processo con l'accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il 22 luglio, cioè domani, presso il Tribunale di Roma a Piazzale Clodio, si terrà la seconda udienza nei loro confronti. In solidarietà con chi si ribella all'interno dei CIE, giovedì 22 luglio, ore 10, appuntamento sotto il Tribunale di Piazzale Clodio. E appuntamento altrettanto importante, anche se più ludico, magari fare tutti e due sarebbe davvero fantastico. E appunto la serata a sostegno di Radio Onda Rossa, una radio che non si piglia, come dicono qua a Roma. Radio Onda Rossa e Blues, venerdì 23 luglio 2010, Radio Onda Rossa è orgogliosa di festeggiare l'estate con Radio Onda Rossa e Blues al CSA La Torre, via Bertelù 13 sulla Nomentana a Roma. A partire dalle ore 21 ci sarà una serata di blues e jazz a sostegno di Radio Onda Rossa. Suoneranno Rambling Souls, Don Juan e De Saguaros, Sam, sconosciuti al mondo. In funzione chiaramente saranno, diciamo in funzione appunto sia la birreria che la trattoria lì al CSA La Torre, che ve lo consiglio, è un posto davvero che in maniera particolare quando c'è questa temperatura, uno dei posti a Roma dove meglio si sta. E allora va bene, ricordando ancora una volta quella che è stata, come dire, la questione genovese, di cui chiaramente non dirò molto altro. Diciamo, vi lascio a questo ennesimo ulteriore blocco, diciamo, musicale. Il 21 luglio non si può fare molto di meglio leggendo un poco quello che c'è scritto su romaindymedia.org, ma che poi sostanzialmente è quello che pensiamo tutti. Giusto due righe con su scritto: c'è chi non dimentica, c'è chi non perdona, c'è chi non lascia la propria storia ad un'aula di tribunale. A Carlo, con la stessa rabbia di sempre, chi dimentica uccide. Un buon ascolto a tutti e tutte, siete su transizionedifase.org e questa è Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Avete ascoltato in sequenza Tricky, Bjork, i Postal Service e Telefon Tel Aviv, adesso Portishead Numb. Buon ascolto. Thank you. Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una favola. Sono sui miei passi e adesso contali bene. Il tempo che è passato non è una buona ragione. Poi è che non mi basti lo scambio di un'opinione e neanche l'imbarazzo con cui mi mostri le scuse. La vita è sorprendente, nascondo il tuo vero nome. Tra denti, sono già stato a lezione, facendo la fiducia con un rasoio a due lame. Ho fatto molta strada, sacrificato persone. Tutta la tua arrogante danza, danza, la sicurezza di chi sempre a tempo. Il giusto stato sbattillante attento, di chi da sempre impone l'ultima parola. Chi fa un male più di un colpo di pistola, è appena quello che ti meriti. Ci provo un somine con quella allora, non mi vergogno dei miei limiti e limiti. O metti girando un colpo di pistola, ti vedo un po' corto di numeri. Ci provo un somine con quella allora, non mi si cade con i tuoi alibi. Ti fa un male più di un colpo di pistola, è appena quello che ti Qua bisogna interromperla perché è una dedica speciale, insomma, no. Chiaramente un pezzettino l'avete ascoltata e chi la conosce lo sa. Va bene, niente altro da dire. Semplicemente che sono passati 9 anni da Genova e qua la situazione è peggiorata seria. La faccio ripartire allora. E dai, non la commento, non la introduco, poi magari dopo lascio che sia una dedica vera e propria. Buon ascolto a tutti e a tutte. We'll be right back. quello che è riuscito a fare questa persona è davvero al di là del confine di qualunque altra persona nel mondo. Aphex Twin, questo brano si chiama Girl Boy Song, è stato premiato con l'album Aphex Twin, va bene, artista poliedrico che davvero ha fatto suonare anche le cucuzze. È stato premiato nel 2000 come appunto il Bach del 2000, ma chi mi ha richiesto questa canzone mi ha fatto notare che in realtà è anche il Bach del 2010, oramai non compone da un po', in realtà se non sbaglio l'ultimo suo album è del 2007, però chi ha avuto modo di sentirlo suonare non in palcoscenici davvero non troppo commerciali, dove lì un po', diciamo, si trattiene particolarmente, però chi ha avuto modo di sentirlo suonare davvero dal vivo, magari anche qualche anno fa, ha sentito qualcosa che sicuramente non si può dimenticare. E davvero Aphex Twin spacca tutto quanto. Adesso seguirete senza interrompere, anche se la dedica era dovuta ed è un onore, insomma, un saluto forte anche a tutto quanto il CS della cartella. Stranamente collegato in questo discorso, ma non tutto è dovuto sapere, dovuto insomma da sapere e da spiegare durante una trasmissione. Allora, dedicato anche quest'altro brano a tutte le persone che sono stufe di studiare cose che ha detto gente 100 anni fa. Il brano si chiama Pollution of the Mind e lei è Miss Keating. Close in airports. people, voodoo people. We'll be right back. is not. I'm gonna make you mine. loro la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici li conosceranno, sono chiaramente i Placebo. Prima avete avuto modo di ascoltare i Radiohead con Packet Like Sardines in a Crushed Tin Box, i Mouse on Mars, i Prodigy, e ancora prima ve l'avevo annunciata Miss Kitty, che insomma Pollution of the Mind, come dire, inquinamento mentale, che forse in questo periodo a Fosso di Luglio è davvero una delle come dire, dei titoli che più mi rispecchia, visto lo stato attuale delle cose, ma non ci badiamo troppo, andiamo avanti. Tra l'altro mancano solo 10 minuti, e allora diciamo proprio in conclusione di questa puntata, che tra l'altro è l'ultima puntata prima di della vacanza estiva di Salute e Felicità, vacanza per così dire, perché chiaramente la radio non si fermerà qui, sarà coinvolta in un po' di dirette e comunque avrà il suo solito random con un po' di programmazione, non tutto il palinsesto chiaramente, con un po' di programmazione che sicuramente andrà in onda. E allora mettiamo un poco di calma nei nostri cervelli e rilassiamoci con questi con questo brano, poi avrete la sigla e un post sigla, vabbè, noto più o meno a tutti, dai. Buon ascolto a tutti e a tutte. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend is not a means, you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice, friendship is an end. What do you know, it happened again. The loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference, but we're standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know, it happened again. Bene, la sigla finale di questa puntata sarà di un autore che avrete già sentito, poi chi conosce De André chiaramente a maggior ragione deve aver sentito qualcos'altro di lui. L'artista si chiama Georges Brassens, che non si legge così, ogni volta lo dico, però non sono molto capace col francese, e appunto